Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. La sovranità è passata dal popolo al partito dei giudici, dice Berlusconi. Cambierò la Costituzione. Nel frattempo, poco fa, la Camera ha respinto la richiesta di arresto per Cosentino. Tra poco la cerimonia per l'assegnazione del Nobel ad Obama. C'è qualcuno più degno, dice lui. Bene i dati sul PIL e sulla produzione industriale, mentre corrono gli incassi da recupero di evasione. Domani la decisione sulla fiducia alla finanziaria. Sempre di più i pendolari, ma secondo Legambiente è in ritardo un treno su tre. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Benvenuti a questa nuova edizione di GR24, che apriamo dunque con l'intervento del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi al congresso del Partito Popolare Europeo a Bonn. Moltissime le dichiarazioni sull'Italia. Ci colleghiamo in diretta con l'inviato del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. Gerardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Il Presidente del Consiglio ha parlato qui al congresso popolari europei della sfide che ha di fronte l'Europa e si è ritagliato però l'ultima parte del suo intervento per parlare di Italia. Ha voluto spiegare che in Italia comandano i giudici e che la sinistra, una sinistra allo sbando, non riuscendo ad avere ragione attraverso la politica del fatto che il Partito della Libertà resta il principale forza politica italiana, cerca di avere ragione con i giudici. Il partito dei giudici sta sovvertendo le regole democratiche, secondo Berlusconi, e si è sostituita alla sovranità popolare. Che cosa avviene? Quando una legge viene approvata in Parlamento, dice Berlusconi, il partito dei giudici, se questa legge non gli piace, fanno intervenire la Consulta. La Consulta, la gran parte dei giudici della Consulta, non è più un organo però di garanzia, ma un organo politico, perché, dice sempre il nostro Premier, in realtà i giudici della Consulta sono stati per la gran parte eletti da presidenti della Repubblica, gli ultimi tre di sinistra. Ora, dire che i presidenti della Repubblica sono di sinistra, Napolitano, l'attuale presidente, sicuramente ha un passato politico nell'ex PC, ma dire che Ciampi e ancora Scalfaro siano legati al Partito Comunista o alla sinistra è quantomeno azzardato. Bene, il braccio di ferro con i giudici continua. Berlusconi ricorda i numeri: 103 procedimenti, 913 giudici si sono interessati di me, 587 visite della polizia giudiziaria, 2520 udienze, un record della storia. Cosa fare? Beh, insomma, andare avanti, contrastare questo stato di cose. Meno male che c'è uno come me, dice, che è un leader forte, duro, con le palle. E grazie Gerardo Pelosi per questa corrispondenza da Bonn. Nel frattempo, proprio a proposito di politica e giustizia, la Camera ha respinto la richiesta di arresto per il sottosegretario all'economia Cosentino. Ci colleghiamo dunque in diretta con Andrea Viali, perché il fatto è proprio di pochi secondi fa. Andrea. Sì Simone, come previsto dunque anche l'aula di Montecitorio ha detto no con un voto a scrutinio segreto all'arresto di Cosentino, confermando la decisione che era stata presa nei giorni scorsi dalla Giunta per le autorizzazioni sempre della Camera. Chiedere l'arresto di Cosentino, che tra l'altro era indicato anche come possibile candidato del PDL a governatore della Campania, era stata la Procura di Napoli che lo accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, lo ritiene vicino ad alcune famiglie camorristiche campane. I voti contrari all'arresto sono stati 360, 226 invece quelli contrari. Scusate, i voti contrari all'arresto sono stati 360, 226 quelli favorevoli. Contro ha votato la maggioranza, che era presente al gran completo in aula. A favore si sono espressi invece il Partito Democratico e l'Italia dei Valori, mentre l'UDC ha lasciato libertà di coscienza ai suoi deputati. Nel pomeriggio ci sarà ancora un voto su Cosentino, la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione, che vorrebbe appunto le sue dimissioni dalla carica di sottosegretario. Per ora è tutto, Simone. Grazie Andrea, vedremo che cosa succederà. E al rapporto tra giudici, politica e riforme era dedicato il nostro sondaggio di oggi. Meno comparsate in TV, meno convegni, più tempo in procura per cercare latitanti. Le parole del ministro alla giustizia Alfano erano la base del nostro sondaggio di oggi. Le condividete? I magistrati sono distratti da troppa esposizione mediatica? I nostri ascoltatori si sono divisi. Il 52% pensa che Alfano abbia sbagliato. Sferzante e ironico il procuratore capo di Torino, Caselli, uno che in carriera ne ha presi tanti di latitanti, senza per questo fuggire dai riflettori. Le parole del ministro Alfano mi sembrano le parole di un simpatico burlone, ecco, come dire. Il ministro Alfano sembra pretendere che di giustizia possano parlare tutti, proprio tutti, a volte con toni da bar dello sport, e mentre i soli che dovrebbero stare zitti sono proprio i magistrati. Sarebbe come pretendere che i medici non parlino di sanità, gli insegnanti di scuola, i giornali di informazione. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30. Per votare andate su radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E dopo l'apertura dedicata alla politica ci dedichiamo all'economia. Ci sono molti dati che sono stati diffusi in mattinata, due in particolare dall'Istat. Innanzitutto la conferma sul prodotto interno lordo italiano, cresciuto nel terzo trimestre dell'anno dello 0,6%, che ha fatto però segnare un calo del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2008. È confortante però in particolare, secondo l'Istat, il dato sulla spesa delle famiglie, cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. È il dato migliore dal 2007. E bene è andata anche la produzione industriale, cresciuta ad ottobre dello 0,5% rispetto a settembre e diminuita comunque del 14% su base annuo, anche se continua ad essere negativo. Il dato annuo è il migliore dall'inizio del 2009. Ancora dati, quelli che arrivano dalla lotta all'evasione, che porta forti incassi. Nei primi 11 mesi dell'anno gli incassi si sono attestati a 7,4 miliardi, hanno superato così l'obiettivo di 7,2 miliardi programmato per il 2009. A fornire i dati è stato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Tutti i numeri naturalmente che serviranno a definire la politica economica del futuro, in parte già definita naturalmente dalla finanziaria che è ancora in discussione alla Camera. Domani si decide sulla fiducia. Nel frattempo protestano i sindaci. Vincenzo Miglietta in diretta da Montecitorio, buongiorno. Sì, buongiorno. Gli aspetti economici della manovra lasciano il campo oggi ai risvolti più politici. Al centro del dibattito resta infatti il possibile ricorso alla fiducia da parte del governo. Il testo va bene così come è uscito dalla Commissione Bilancio, hanno ricordato più volte dal Ministero guidato da Giulio Tremonti. L'opposizione però non ci sta, parla di esproprio del Parlamento e promette dunque battaglia su questo punto. Ricordiamo che oggi si andrà avanti in aula ancora con la discussione generale. La richiesta della fiducia dovrebbe arrivare tra domani e martedì prossimo. A chi non va proprio giù intanto alla manovra economica sono i comuni. Questa mattina tantissimi sindaci riuniti intorno alla loro associazione, l'ANCI, si sono ritrovati qui davanti a Montecitorio per protestare per quelli che chiamano tagli immotivati alle loro risorse. Ascoltiamo allora il presidente dell'ANCI e sindaco di Torino, Chiamparino. Il messaggio che si dà è che i sindaci sono quelli che sperperano il denaro pubblico. Allora, su questo piano io dico riducete i parlamentari. Visto che ci dite che un comune che ha un budget di 3 miliardi come Roma non può avere un direttore generale, io faccio una controproposta: prendete tutti i direttori generali dei ministeri che hanno dei budget uguali o inferiori a 3 miliardi e li cancellate e risparmiate di più e migliorate la pubblica amministrazione. Una delegazione di sindaci sarà ricevuta fra breve dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta e a seguire dal presidente della Camera Fini. Altro tema, l'uso del TFR in mano all'INPS per la copertura di un terzo della finanziaria. Critici sindacati, dal governo tuttavia si assicura ai lavoratori non sarà tolto nulla. E da Roma è tutto. E grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. E noi passiamo a parlare di sanità italiana, perché oggi è stato presentato il rapporto dal Ministero. Ci colleghiamo in diretta con Alessandra Schepisi che ha seguito questa presentazione. Alessandra. Sì, buongiorno. Italiani più sani e più longevi, migliora il nostro stato di salute e si vive più a lungo. Lo sottolinea quella sorta di risonanza magnetica che è il rapporto sullo stato sanitario del paese. Il 61% della popolazione si considera in buona salute, mentre solo il 6,7% dà una valutazione negativa delle proprie condizioni fisiche, con una propensione a sentirsi male più alta nelle donne e negli anziani. Il rapporto ci dice poi che dagli anni 90 è aumentata la speranza di vita da 74 74 a 78 per gli uomini e da 80 a 84 per le donne, con un costante scarto tra i due sessi di 6 anni. La prima causa di morte le malattie cardiovascolari, la seconda il tumore, mentre forse si sa meno che il 5% dei decessi è dovuto alla pigrizia, cioè alla inattività fisica, ben 28.000 l'anno. A presentare il rapporto il ministro Sacconi, secondo il quale in Italia i servizi sociosanitari rimangono ancora troppo differenziati tra un centro nord che funziona e un sud che arranca, e il federalismo fiscale, dice, potrebbe rappresentare una soluzione. Sacconi è anche intervenuto sulla pillola abortiva RU486 da oggi disponibile in Italia. Sentiamo. Ma il percorso era già indicato, il problema deve essere quello della compatibilità con la legge 194 attraverso il ricovero ospedaliero ordinario. L'AIFA lo ha detto chiaramente che dall'assunzione fino al completamento del processo farmacologico deve essere continua l'attività di vigilanza medico ospedaliera. E se questi criteri non vengono rispettati? Ci troveremo in presenza di una violazione di una legge dello Stato largamente condivisa nel Paese e dovremmo prendere misure. E nel rapporto ci sono anche i numeri delle interruzioni volontarie di gravidanza, che dal 2007 al 2006, dati del rapporto, li ricordiamo, fanno riferimento a questo periodo, sono diminuite in Italia del 3%, per un totale di 127.000. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. 2 giorni fa l'appello del Papa ai media e la Congregazione per il Clero ha messo a punto una sorta di vademecum per i sacerdoti nell'utilizzare i mezzi di comunicazione, in particolare la televisione e la rete. Se ne è parlato nel corso di un seminario organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce a Roma. Al microfono di Katia Caramelli, Don Sergio Tapia, docente dell'Università. Non essere dei preti showman, no? Di preti che vanno in televisione soltanto, diciamo, per proporsi come protagonisti, ma apportare sempre nei mezzi di comunicazione l'immagine, diciamo, l'identità del sacerdote come rappresentante della Chiesa, anche se tante volte un sacerdote va in TV, non sempre ha, diciamo, un mandato esplicito, diciamo così. Ci sono state una serie, diciamo, di linee guida che io stesso ho suggerito ai sacerdoti per migliorare la preparazione delle omelie. Ecco, quali sono queste linee? Proprio perché viviamo in un mondo di comunicazione, il sacerdote si deve far carico che deve parlare in qualche modo anche usando delle immagini. Non possiamo fare omelie lunghe e noiose, è necessario, diciamo, mettersi in concorrenza anche con la comunicazione tradizionale che i nostri fedeli stanno ricevendo adesso, no? Loro guardano costantemente la televisione, ascoltano la radio, si utilizzano storie, aneddoti, immagini che fanno capire meglio il messaggio, e lo stesso dobbiamo fare noi, anche prendendo spunto, facevo riferimento, non lo so, a saper utilizzare anche il testo di una canzone. Restiamo a parlare di televisione. Finisce un'epoca di quella americana di televisione, l'ultima vera soap opera. Sentiamo perché. Tutto era iniziato con la serialità radiofonica e così era nato il termine soap opera. La Procter & Gamble aveva sponsorizzato programmi che poi si sarebbero trasferiti in televisione, come il più famoso Guiding Light, cioè Sentieri, chiuso in settembre dopo 72 anni. Cala il sipario anche su As the World Turns, la seconda per longevità, 54 anni. Era andata in onda per anni con il titolo Così gira il mondo sulle reti Mediaset, che trasmettevano altre serie del colosso americano, Destini, Aspettando il domani e Ai confini della notte. This is the time to remember. The World Turns era l'ultima soap prodotta dalla Procter & Gamble, quindi in senso letterale l'ultima vera soap opera. Alla multinazionale ora resta solo la sponsorizzazione di The Young and the Restless, cioè Febbre d'amore, sponsorizzazione, non produzione. In compenso ha creato un'etichetta discografica che si chiama Tag, come un deodorante, ma difficilmente questa volta nascerà il nome di un genere che passerà alla storia. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Quello che state sentendo in diretta è la cerimonia per l'assegnazione dei Nobel di quest'anno, in diretta da Oslo, cerimonia che vedrà anche l'assegnazione del Nobel per la pace al presidente americano Barack Obama. Nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato delle parole del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e della decisione della Camera di respingere la richiesta di arresto per il sottosegretario Cosentino. Abbiamo parlato anche di economia con i dati sul PIL e la produzione industriale, oltre che di finanziaria. Adesso parliamo di Nobel. ID. The United States cannot be indifferent. E quello che sentite ancora in diretta è, se non erro, Cristina Ballotelli, il presidente dell'Accademia dei Nobel. Sì. Allora, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che in questo momento il presidente appunto sta praticamente dando le motivazioni dell'assegnazione di questo premio al presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Ha detto che Obama ha fatto il massimo per la pace nel 2009, per questo è stato deciso di assegnargli il premio, e ha detto che questo premio è a call to action, una chiamata all'azione. E a questo punto mi leggo a quello che ha detto Obama in precedenza, perché ha tenuto una conferenza stampa dopo aver incontrato il premier norvegese Stoltenberg. Obama ha detto che potrebbero esserci stati candidati più meritevoli di lui per il premio, in qualche modo rispondendo così alle perplessità avanzate da più parti dopo l'annuncio del Nobel a lui, che aveva sorpreso perché è un Nobel assegnato ad un presidente che non è ancora al termine del suo mandato, che sta portando avanti una guerra in Afghanistan e in Iraq non è ancora finita, e indirettamente anche in Pakistan. Un Nobel che aveva fatto discutere, anche perché nessun presidente prima di lui era stato accompagnato da tanta aspettativa. Obama aveva già provato a ridimensionare queste attese. Il problema è che in futuro potrebbe scivolare sotto il peso di tante attese nel mondo, potrebbe fare dei passi che non gli verrebbero perdonati. Insomma, questo è un Nobel che dà per acquisito ciò che ancora deve avvenire. Molti dicono che aspettano ancora di vedere i fatti, che finora sono soltanto parole. Così si inserisce quindi la risposta di Obama: non ho dubbi sull'esistenza di altri candidati che avrebbero potuto essere più meritevoli, e così si comprendono le motivazioni di cui appunto sta parlando in questo momento il presidente del comitato che ha assegnato il Nobel. Ebbene, sentiremo poi che cosa avrà da dire invece il presidente americano, appunto Barack Obama. Grazie nel frattempo a Cristina Ballotelli. Noi da Oslo ci spostiamo a Copenaghen, tra chi spera in un accordo che innalzi dal 20 al 30% i tagli di CO2 per il 2020, c'è la Danimarca, padrone di casa, e anche molti paesi dell'Europa, del Nord Europa, appunto, in cui lo sviluppo delle tecnologie per l'industria del rinnovabile è molto appunto sviluppata. Eolico in primo piano in Danimarca. Gigi Donelli questa mattina ha raggiunto proprio una centrale offshore. Gigi, buongiorno. Sì, buongiorno da Copenaghen. Anche qui effettivamente c'è molta aspettativa perché si passa dalle parole ai fatti. Prima di parlare di eolico vi anticipo che poco fa è cominciato a circolare un nuovo documento, sarebbe dunque il documento atteso firmato Cina, India, Brasile e Sudafrica. Si affermerebbe nel documento anticipato, ripeto, pochi momenti fa da Le Monde, la fedeltà al protocollo di Kyoto, quindi che secondo Pechino deve restare lo strumento legale con cui si chiede ai paesi industrializzati di ridurre del 40% le emissioni dei gas serra da qui al 2020 rispetto al 1990. Naturalmente nelle prossime ore vi aggiorneremo su questo punto. L'eolico, come dicevi, è senz'altro uno dei grandi obiettivi, anzi delle realtà di questo paese. Questo è il paese delle 5100 turbine, un settore che dà lavoro solo appunto per la Danimarca 26.000 persone. Sono 3.400 megawatt quelli installati, di cui un quinto offshore, e la potenza complessiva è di fatto l'effetto di una politica che il governo di Copenaghen persegue dagli anni 80. Il 20% di tutti i consumi di energia elettrica in questo paese sono assicurati dall'eolico. Il parco di Middelgrunden, che ho visitato questa mattina, tra l'altro proprio a metà strada di fatto tra qui e la Scandinavia, quindi verso il Nobel di Obama, è un luogo emblematico proprio di come la politica del governo spinga nella direzione dei gruppi industriali, ma anche nei gruppi di interesse dei cittadini. Midelgröden è un campo eolico a proprietà diffusa, sovvenzionata dallo Stato, sorge nel canale del Sund, proprio lungo il confine con la Svezia. Sono 20 turbine, distanti 180 metri l'uno dall'altro, che formano un arco di quasi 4 chilometri, una linea che continua idealmente la linea delle mura medievali della capitale. Ecco, la proprietà è divisa tra 8.400 azionisti, il più grande dei quali, pensate, è l'associazione degli insegnanti, proprio quelli di scuola di Copenaghen. È un sistema che produce 89 milioni di kilowattora l'anno, cioè circa il 3% di tutti i consumi della capitale. E da Copenaghen la linea torna allo studio. Grazie Gigi Donelli per questi aggiornamenti. Notizia di mattinata: Fabrizio Corona è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione nel processo milanese per i presunti fotoricatti a VIP. Il PM aveva invece chiesto per Corona una condanna a 7 anni e 2 mesi di reclusione. La condanna è arrivata per 4 capi di imputazione relativi all'estorsione e tentativi di estorsione nei confronti del calciatore Francesco Coco, del motociclista Marco Melandri e del calciatore Adriano. Parliamo di un altro processo assai più importante, ci si consenta, quello per la vicenda Eternit che si è aperto oggi. Appena cominciato fa già scuola il processo che si è aperto oggi a Torino contro i vertici Eternit. Sulla scia del processo, infatti, qualche giorno fa in Francia sono stati indagati per omicidio anche i titolari della Eternit Transalpina. Così hanno raccontato le centinaia di persone sbarcate da Oltralpe questa mattina a Torino. Proprio la delegazione francese è stata infatti tra le prime, poco prima delle 8, ad arrivare davanti al Palazzo di Giustizia, dove si sono poi riunite centinaia di persone, in gran parte partite da Casale Monferrato, Rubiera, a Bagnoli, le zone più colpite dalla strage dell'amianto, che finora ha già causato 3.000 vittime, anche se il picco è previsto nel 2020. Il processo si è aperto poco dopo le 10. Nella Maxi Aula 1, la stessa del processo Thyssen, c'erano centinaia di avvocati e giornalisti, ma non gli imputati, dichiarati contumaci. Oggi si è cominciata la costituzione delle parti civili, un passaggio lungo perché la lista potrebbe arrivare a contenere 4.500 nomi, pronti a chiedere risarcimenti per 5 miliardi. Un processo record dunque, che per arrivare a una sentenza richiederà almeno un anno, forse anche due. Marco Ferrando, GR24, Sole 24 Ore, Torino. E adesso in chiusura, siamo in chiusura, parliamo di sport con il calcio in primo piano. Venerdì 18 a Nyon, Fiorentina, Milan ed Inter conosceranno i nomi degli avversari negli ottavi di Champions League. Anche nella sera del successo su Rubin, Mourinho non ha perso l'occasione di polemizzare con il calcio italiano. Pensate solo a chiacchierare, ha detto il tecnico dell'Inter. La risposta di Renzo Olivieri, presidente dell'associazione allenatori. Siccome io sono tra quelli che ha fatto tanti errori anche di questo genere, ne ho fatti tanti, però me ne sono accorto a distanza di anni e sul momento mi sembrava di aver ragione, di fare bene. Credo che la stessa regola valga anche per Mourinho. La sensazione è che lui si senta un pochino accerchiato, no? Ma non è così, perché da parte dell'Italia in generale, da parte degli allenatori italiani c'è apprezzamento. In chiusura di questa edizione vi segnaliamo una notizia, una ricerca arrivata da Legambiente: continua a crescere il numero dei pendolari, 2,6 milioni di cittadini che si spostano ogni giorno in treno da e per la città, 200.000 viaggiatori in più rispetto al 2007, pure il 67% delle risorse pubbliche va a strade ed autostrade. Ne parleremo nel giornale radio delle 14. Nel frattempo è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Ceci e con in regia Valeria Bernardi. Prossimo giornale radio appunto tra circa mezz'ora. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.